sento nel cuore un raggio di speme, un raggio di speme, ma il dubbio vi freme, e pace non ha, ma il dubbio vi freme, e pace non ha, non ha. Sento nel cuore un raggio di speme.